Avanti il beep. Abbiamo gli sconti fino al 50%. Le nostre offerte sono molte carte. Per le orecchiette il ritornello è sempre che risparmi. All'Est Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Un esempio, passata di pomodoro e con 300 grammi, scontata del 50% a 99 centesimi. Fino al 15 gennaio solo con carte di cittadino e con il mio scopo. Negozio su tutto. Thank you. acquario del mono. E le signore più belle tirano le caramelle. Mi ci aspetta che vado troppo in fretta. 10 alla seconda 10. Alleluia, alleluia, alleluia, ding dong dong, canale 10, cambio!